buon pomeriggio a tutte e a tutti. Siete sempre sintonizzati sugli 87.9. Questa è Radio Onda Rossa. E come ogni giovedì pomeriggio, Arcishep ci introduce una nuova puntata di Attica Blues. Arcishep, che ritroveremo più avanti in questa puntata in compagnia di un altro musicista africano. E proprio questa puntata faremo un lungo viaggio attraverso un lungo viaggio sulla black music, partendo dal Mali. Allora partiamo dalle radici, dal blues, e non potevamo che iniziare con un musicista meraviglioso. Lui è Arifar Katuré e qui è in compagnia del chitarrista americano Ray Cooder. E allora mettetevi comodi e buon viaggio. (06) 49 17 50 è il numero di telefono e vi ricordo anche lo streaming sul sito www.ondarossa.info. Nah. Kuder, che ha ripetutamente colmato il divario tra la musica tradizionale africana e la musica contemporanea americana. E così, con questo Talking Timbuktu, lo vede cantare in 11 lingue e suonare chitarra acustica ed elettrica, banjo a 6 corde e le percussioni. E poi anche una quantità di ospiti veramente importanti, fra cui anche parecchi jazzisti, ricordiamo il bassista e contrabbassista anche John Patitucci, e ovviamente la chitarra è anche quella di Ray Kuder, il musicista californiano americano che è sempre stato appassionato dei suoni del mondo. Ricordiamo anche il suo progetto con Wim Wenders del Buona Vista Social Club, e qui invece si è affidato alla riscoperta di questo splendido musicista africano, producendo anche questo album uscito per la World Circuit nel 1994. Questa era proprio Sokura, a firma di di Arifar Katuré. E adesso ci ascoltiamo invece un traditional, sempre da questo disco, è il brano che chiude questo Talking Timbuktu, si chiama The Arabi. Mon querida, mon chéri, mon querida, ne tombe de fait. Ali Farkaturé, detto anche il Johnny Lee Hooker dell'Africa, un po' per quella sua voce bassa e i ritmi mid-tempo, ma anche per quell'accompagnamento minimo che caratterizza un po' tutte le sue i suoi brani. Ali Farkaturé, che è arrivato al successo in tarda età, più o meno ai 50 anni, verso la fine degli anni 80, attraverso un suo album omonimo, e da lì poi una carriera che durò qualche anno, le tournée in America, in Nord America, in Europa, e poi si ritirò comunque nel 1990 per dedicarsi alla sua fattoria di riso in Mali. Fino appunto al 1994, quando Ray Cooder lo convinse a ritornare in sala di incisione, e qui si recò proprio negli studi a Los Angeles per questo meraviglioso album che gli valse anche un Grammy come miglior album della musica world. Album che gli valse di nuovo un grande successo e l'attenzione di critici di mezzo mondo, ma comunque appena vide che il suo successo si stava di nuovo esaurendo, si ritirò nuovamente nella sua fattoria e quindi concluse la sua vita, gli ultimi anni della sua vita, ancora nel suo amato Mali. Ali Farkaturé. Ikana hamingo jarabi koso Ikana dimi, ikana kasi Ikana hamingo jarabi kama Mukila jarabi Mukerila nidumelefe Mukila jarabi Mukerila nidumelefe Rimaniamo in Mali con Tomune Adabikité, che è un maestro della kora, che è un'arpa africana occidentale a 12 corde. È lui che comunque ha portato all'attenzione di un pubblico internazionale la musica tradizionale del suo Mali nativo, con una serie di album solisti ben ricevute, alcune collaborazioni improbabili ma comunque molto acclamate. E una di queste è con Rolls Vetterwood, sicuramente un album meraviglioso, e Rolls Vetterwood, che invece viene dall'avanguardia del jazz. E allora eccoli qua insieme. L'album è Mali Cool. radicato nella tradizione africana. Diapité ha comunque aperto a una vasta gamma di altre influenze come il jazz e il flamenco. E tra l'altro nel 2005 una collaborazione con il chitarrista che abbiamo sentito prima, Ali Falcaturé, e entrambi hanno ottenuto un altro Grammy come miglior album di musica tradizionale. Ci spostiamo al Sudafrica, dove i suoni melodici si fondono con l'improvvisazione del jazz e l'abilità tecnica della musica classica, e parliamo del pianista sudafricano Dorlar Brand, o come si definisce lui stesso, dal 1968, in cui si convertì all'Islam, Abdullah Ibrahim. E allora eccolo qua. nel 1934 a Cape Town, appunto in Sudafrica. E Abdullah Ibrahim diventa un musicista professionista giovanissimo nel 1949 e 10 anni dopo si unì al primo gruppo che registrò un disco jazz in tutta l'Africa, ossia i Jazz Epistles, in cui figurava anche il trombettista Hugh Masekela. Proprio come Hugh Masekela nel 1962 Abdullah Ibrahim lasciò il Sudafrica con la cantante e poi moglie Satima Bea Benjamin. I due si sposarono nel 1965 e si stabilirono in Svizzera, a Zurigo. Poi, esibendosi con il suo trio, venne notato da Duke Ellington, che gli spalancò le porte del jazz europeo e soprattutto americano. Così lui si trasferì in America, prima di tornare poi nel 1990 di nuovo in Sudafrica. E allora adesso ce l'ascoltiamo con Archie Shepp in un disco che si intitola Duet del 1978, e questa è Monipa. Thank you. Prima di Abdullah Ibrahim, Ugma Sekela e la moglie Miriam Makeba, all'indomani del massacro di Sharpeville del marzo del 1960. Pure loro lasciarono il Sudafrica in un esilio volontario per trasferirsi però in America. E lì musicisti come Dizzy Gillespie o Harry Belafonte lo aiutarono e lo assistirono. E così Ugma Sekela ha potuto studiare alla Royal Academy of Music e poi alla Manhattan School of Music di New York. E durante i primi anni 60 la sua carriera iniziò a esplodere, registrando per la Mercury, per la Verve, in uno stile ibrido africano, pop e jazz. E adesso ce l'ascoltiamo da forse quello che è il suo album più riuscito, Home is Where the Music Is, uscito appunto per la Verve negli anni 70, e ci ascoltiamo No Mali. Ugma Sekela. Giovedì 26 luglio e siete sempre all'ascolto di Attica Blues. Masichella, che poi negli anni 70 ha seguito una direzione più etnica, si recò a Londra per incontrare il sassofonista nigeriano Fela Kuti e quindi gli Africa 70 Tony Allen, e poi ha cominciato a girare dividendosi fra America e Africa. Ha dato vita ad album afropop, album più jazz come questi e album più psichedelici, insomma una carriera veramente importante che poi si è conclusa il 23 gennaio di quest'anno con questa sua morte improvvisa. E a tal proposito vi ricordiamo anche il podcast che gli abbiamo dedicato proprio il giorno seguente alla sua morte. Lo troverete come sempre sul sito di Onda Rossa, Palinsesto, giovedì pomeriggio, Attica Blues. in questo nostro lungo viaggio ci spostiamo dal Sudafrica di Hugh Masekela al Benin di Lionel Hugh, dove nacque nel 1973, e poi proseguì un percorso simile a quello di Hugh Masekela, ossia ispirato dal fratello che gli ha insegnato a suonare la chitarra durante i suoi ultimi anni dell'adolescenza. E Lionel Hugh si spostò prima in Costa d'Avorio, poi a Parigi all'American School e poi alla Berklee College di Boston, e da lì una serie di registrazioni di alto profilo, tra cui quelle con Terence Blanchard, Charlie Haden, Herbie Hancock, e insomma il gota del jazz americano. E allora ce lo ascoltiamo in un disco uscito per la Blue Note dal titolo Caribou. Qui è in trio con Massimo Biolcati e Frenec Nemet, e quella che ci ascoltiamo è Novignon. rimaniamo con la Blue Note per l'album di debutto del bassista Marcus Miller del 2015. Si trattava di Afrodisia e la musica ed è stata ispirata dal lavoro di Miller come artista dell'UNESCO per la pace e come portavoce del progetto Slave Root. Infatti Marcus Miller ha fatto un percorso inverso, sia dagli Stati Uniti, è andato in Senegal, in Ghana e in tutti gli stati dell'Africa occidentale per ripercorrere il percorso degli schiavi che venivano poi trasportati in Sud America, nei Caraibi e negli Stati Uniti. E allora ci ascoltiamo B.S. River, Marcus Miller. Bis River, Marcus Miller l'ha composta proprio in Senegal, in quel luogo in cui venivano scelti e arruolati gli schiavi che poi sarebbero stati mandati nelle Americhe. Slave Root. Percorso simile l'ha fatto la splendida voce di Didi Bridgewater nel 2007 con Red Heart, e qui invece si recò nel Mali per appunto omaggiare la musica di questo splendido paese con musicisti provenienti proprio dal Mali. È un album di brani traditional, di brani originali e di qualche standard jazz come Footprints. E allora noi ci ascoltiamo Mama Don't Ever Go Away, tra l'altro un disco doppio in cui c'è anche uno splendido DVD che racconta proprio l'esperienza di questa splendida cantante che abbiamo visto tra l'altro 3 giorni fa qui alla Casa del Jazz, in cui invece omaggiava la musica di Memphis. Allora, totalmente altre sonorità. E allora, Didi Bridgewater, Red Heart. te mama na saya di ama te bana yala. Now I'm a mama with kids of my own and they're my pride and joy. I got three girls and a boy. I teach them what mama taught me. I love mama. Mama di na saya. Mama don't ever go away. Mama di na saya. Mama don't ever go away. Mama. Album sicuramente riuscito, in cui la voce e la freschezza di Didi Bridgewater si sposano meravigliosamente bene con la musica del mare. Mamma. E dal Mali ci spostiamo al Senegal di Sekou Tou Keita, in compagnia questa volta di Omar Sosa e del percussionista Gustavo Ovalles. I tre hanno dato vita lo scorso anno a un bellissimo album, si intitola Transparent Waters, appunto per far capire anche l'importanza e il bene primario dell'acqua nell'Africa, e tra l'altro sono stati in concerto lo scorso novembre al Roma Jazz Festival. È davvero una musica davvero toccante. E allora Omar Sosa, il pianista cubano, Sekou Tou Keita alla cora e Gustavo Ovalles alle percussioni. Questa è Dari. dal Senegal di Sekou Keita ci imbarchiamo verso Cuba, dove troviamo ancora il polistrumentista di origine appunto cubana Omar Sosa, un artista prolifico, molto apprezzato e noto per le sue registrazioni che fondono jazz latino, le tradizioni africane, l'improvvisazione d'avanguardia, la musica classica e molto altro. Insomma, lui che ha viaggiato parecchio, per un periodo si è anche trasferito in Medio Oriente proprio per cercare di captare le origini della musica anche medio orientale. E allora, Omar Sosa ce lo ascoltiamo in un disco che è uscito nel 2004, Mulatos, e il brano che abbiamo scelto è Yanowo. E rimaniamo a Cuba, dove troviamo un altro pianista di fama mondiale, famoso per fondere il jazz latino, la musica urbana, i ritmi africani con i suoni della sua eredità. Parliamo di Roberto Fonseca, nato a La Habana nel 1975, e ce l'ascoltiamo da un album bellissimo, Aconan, uscito nel 2009 per la Enya. E allora, questo qua è Roberto Fonseca. Quando una madre llama a su hijo, ay Dios, cuando un hijo llama a su madre, madre, te estoy llamando, ay Dios, te estoy llamando en el nombre de Dios, madre, te estoy llamando, ay Dios, te estoy llamando en el nombre de Dios. Thank you. veramente un virtuoso del pianoforte, come un po' tutti i musicisti di Latin Jazz. Ha iniziato a suonare il piano prestissimo, all'età di 8 anni, e poi si è laureato all'università con un master in composizione. Fin da subito ha collaborato con il musicista Xavier Zalba, che qui troviamo al flauto, al clarinetto e al sax baritono. E poi si è unito nel 2001 a quel progetto Buona Vista Social Club, che tanto ha rappresentato per Cuba. E poi appunto dal 2009 una brillantissima carriera solista, appunto con questo Aconan, e poi anche il live a Marzià che l'ha consolidato, e poi anche l'album Abu, uscito nel 2016 per la prestigiosa Impulse Records. Allora direi di ascoltarci un'altra traccia sempre da questo Aconan, e qui la voce è quella di Mayra Andrade come ospite. Minha voz canta contigo, não canta para mundo de um só voz. Espírito grande mora dentro de nós, deixa livre na som de voz. Abre o peito. Manda pra mundo por luz, e hoje a me tem segredos pra contar. Abri os braços pra mar e tá levada pra fundo de você. Cadê no sonho, longe de vos mãos, o canta pro coração. Thank you. E da Cuba ci spostiamo in Brasile, dove incontriamo Naná Vasconcelos, uno dei percussionisti brasiliani infinitamente fantasiosi che hanno cambiato la direzione e i suoni del jazz brasiliano nel post bossa nova degli anni 70. E allora ce l'ascoltiamo in una incisione del 1988 per la ECM in compagnia di Raf Tauer alla chitarra e di Arild Andersen al contrabbasso. Naná Vasconcelos ovviamente alle percussioni e alla voce, lui che tra l'altro era un virtuoso del berimbau. Questa è Main Man. Vasconcelos, che ha iniziato la propria carriera in giro per il mondo con Gato Barbieri e da lì a Parigi conobbe Don Cherry, con cui si trasferì in Svezia e cominciò a collaborare con tanti nomi grossi della ECM, da Pat Metheny, in cui rimase un ospite speciale dal 1980 al 1983, Egberto Gismondi e anche Jan Garbarek. Un rivoluzionario delle percussioni e le percussioni brasiliane, e poi morì da poco, il 9 marzo 2016, per un'insufficienza respiratoria. ultimo brano oggi per noi in questo lungo viaggio che proseguirà anche la settimana prossima. E allora, siamo arrivati in Brasile e là ci rimaniamo con il quartetto di Wayne Shorter, formato da Danilo Perez, John Patitucci e Brian Blade, e anche l'aggiunta di Alex Acuña, il percussionista anch'egli. E allora, nel 2003 Wayne Shorter, sotto la Verve, si recò in Brasile per registrare questo Aleria, insomma, in cui omaggiava la musica brasiliana, e tra l'altro ci sono pure svariati ospiti fra jazzisti americani, fra cui Brad Meldau, Chris Potter e tanti altri, e alcuni musicisti anche brasiliani. E allora, per concludere, abbiamo scelto questa Baquianas Brasileiras numero 5 a firma di Héctor Villa-Lobos. Poesia di Wayne Shorter. Noi vi diamo appuntamento a giovedì prossimo, ma non prima di avervi ricordato ancora i concerti che ci saranno questa settimana in città. E si comincia stasera con il duo formato da Paolo Fresu e Chano Dominguez, e domani ancora i ritmi più urbani di Steve Coleman, e il 31 il sassofonista protagonista sarà Kenny Garrett. E vi ricordiamo anche le nostre pagine social di Facebook, Twitter e Instagram, dove troverete tutti i contenuti che riguardano questa trasmissione, e anche ovviamente i podcast sul sito della radio www.ondarossa.info e la compilation, la playlist presente su Spotify. In tutti i casi basta cercare Attica Blues e lo troverete facile. Yeah. Allora, appuntamento a giovedì prossimo, sempre Attica Blues, sempre Radio Onda Rossa.